poter seguire un evento anche attraverso Facebook e Twitter significa innanzitutto seguirlo dal punto di vista delle persone che partecipano, quindi dietro le quinte qualcosa che non necessariamente è una notizia da prima pagina ma che arricchisce la partecipazione a un evento sia di chi sta a casa e quindi lo usa come in qualche modo surrogato della presenza non potendo partecipare, sia per chi partecipa che quindi può dare un suo contributo. In genere il modo in cui questi eventi poi finiscono e rimbalzano su Twitter in particolare è grazie all'hashtag, cioè la parola chiave preceduta dal simbolo del cancelletto. Facendo una ricerca con questa parola chiave durante i giorni dell'evento sarà possibile vedere foto, contributi, link alle discussioni che stanno avvenendo in tempo reale, quindi un ottimo complemento. Vorrei chiudere con una parola chiave che a mio avviso è quella fondamentale quando parliamo di questi temi, che è consapevolezza. Nel momento in cui sappiamo quali sono i rischi, quali sono le opportunità e come usare gli strumenti, siamo noi ad avere il controllo.